Allora. Mi sento un ronzio all'orecchio, forse devo farmi È visitare. la quijada. Era? Quijada. Quijada. Che Quijada. è? Quijada. Quijada, questo è il ghiro. Ah, Questo è il quijada. sono strumenti musicali sudamericani. Sono quelli tipo delle batterie elettroniche che usava Jean-Michel Jarre in Ah, Oxygène, beh, capito? certo. Infatti la musica di Jean-Michel Jarre faceva. Faceva. È più veloce, quindi. Tipo, ok. Aspetta. No, perché non è sto tempo qua. Questo è più tipo Sade. Eh sì. Smooth operator. Capito? Questa roba è minimale, draga. Adesso Sì, va al minimale. minimale, Oggi è quindi tu fai. martedì. E quindi? E quindi è Adesso, lontano dal martedì, venerdì. Cioè, perché appunto. lunedì c'ha tutta la sua letteratura di riempimento di Certo. coglioni. Che vabbè. Il martedì Il proprio martedì è un po' un giorno così. anonimo. Allora, noi Sì. anticipiamo un po' Ma come anticipi? la coolness del venerdì al martedì, però un po' Martedì. minimale, capito? Quindi Così. è martedì. E quanti negroni È ci si può bere il martedì, no, martedì a martedì niente, sera? cappuccina. Vabbè, alla sera. Sì. Insomma, E poi dopo fai. Sera. Dopo il No, cappuccino. appunto. Infatti, martedì è una giornata di merda. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Sono sempre le 5, Drago. Sì, non farmi segni di guardare l'ora, sono alcune, le vabbè. 5. Sì, l'ora del tè. Bravo, Oh! te. Guarda caso, andiamo in onda alle 5 meno un quarto, quindi E non sarebbe. quindi siamo sempre in tempo per un bel tè caldo. Sai come dice Caressa, no? Chi? Quello di Sky che fa le telecronache. Ah, che è quello che tra l'altro poi è il marito della sorella. Della moglie, dell'ex amante, dell'ex moglie. Di un noto scommettitore seriale. Tito, ah, dai, era un quiz. Però allora. dai, ha ragione a protestare. Adesso cosa c'entra l'ora del tè? Le 5 con Caressa, lo scommettitore seriale. Allora, Caressa, quando l'arbitro fischia l'intervallo della partita, lui dice sempre: e l'arbitro manda le squadre degli spogliatoi a bere un tè caldo. Capito? Questa è la sua formula Città del tipica. Messico ad agosto. È lo stesso, dice sempre quello, perché Caldo. evidentemente i calciatori non è che Dopo bevono tutto questo giro di gelato. parole, di situazioni, di riferimenti e di citazioni, arriviamo al punto. Cosa sgranocchiano? E noi anche sgranocchianemo. Ah, qui sbagliano gli svizzeri, non sanno Scrivere, l'italiano. E certo, quindi mandano la cosa comunicazione. sgranocchiano? No, cosa Cosa sgranocchiamo mentre beviamo il tè caldo gentilmente offertoci dal marito, della sorella, della moglie, dell'ex amante, dell'ex moglie di un noto scommettitore seriale? In ufficio, tra colleghi e colleghi, tra colleghe e colleghe, oppure anche tra colleghi e colleghe, quando la teiera fa la sua solita comparsa alle 5 meno un quarto. Quando mai? Ma bravo, ma dai, ma non trovi una teiera negli uffici italiani neanche a morire, ma la teiera. Colleghi e colleghe, in vista della tradizionale goliardica bevuta di tè, si organizzano con la merendina che meglio soddisfa i criteri della BCE in termini di rapporto PIL-debito. Wunderwaffer! Wunderwaffer! Wunderwaffer! Wunderwaffer! Wunderwaffer! Ma non passa, come non passa, pa- così non passa. Ma cosa? Il messaggio non Ma come passa. non passa? Ma cos'è in ufficio tra colleghi? Si beve il caffè, non il tè, ma e lo poi la so, merendina, Kappa, io però non so. dai, ma scusa, se tu in uno spot dici che si beve il tè, come tradizione, per incanto si verifica la sospensione dell'incredulità di cui parlava Coleridge a suo tempo. E per un attimo dai, incantato, stai zitto, si crea un mondo fasullo ma vivido e concreto. Sì. Tipo la pubblicità, noi che le telefonate erano solo a gettoni, quella roba lì, quel sì. tipo di nostalgia che non. Adesso non so cosa sto dicendo. Infatti, Dove siamo zitto, dai, sta finiti? zitto un attimo. Senti, facciamo così, facciamo che il Wunderwaffer si mangia in ufficio col caffè, Col boh, caffè, hai capito? ma. O col moccaccino, Ma. così un po' più infantile, c'è cioè un Sì. po' di latte macchiato senza zucchero. Insomma, senza il tè, Drago, che il tè Ma non scusa, funziona, non Kappa, passa il tè. ma sono le 5 Ho non capito, è Drago, sono le e non 5. In sarà Italia mai. tutti bevono il caffè, va bene? E io ne bevo anche troppo, che vedi? Infatti, Allora. vedo. non è l'ora del alle 5, tra l'altro neanche alle 5 sta roba, secondo me è sbagliata, cioè 10. Non importa che la trasmissione vada in onda alle 5, no? Non è che devono mangiare il Wunderwaffer mentre ascoltano Chiedo Asilo. Ma certo, tra l'altro dobbiamo poi, fare un aggancio, siccome scrocchia, fa rumore, non sentirebbero. Ma allora me lo dici come, diciamo, come cavolo faccio sto aggancio tra la realtà lavorativa, so, del target, sì, di questa radio e una merendina svizzera che nessuno ha mai sentito nominare. Basta dire merendina, se non oso del se dici merendina sembra che ti dica merdina, poi dopo gli svizzeri che già capiscono male l'italiano dicono: ho sentito su Radio 24 parlavano di Wunderwaffer, dicevano che era un merdino. No, ma non è una merdina, state tranquilli, signori, no, di Wunderwaffer è una buona merendina. Merendina, secondo me stiamo andando alla grande con sto sponsor. Allora, è il momento del cinema, K, perché anche qui a Chiedo Asilo abbiamo il nostro angolo del cinema. Ah, sì? Sì. Ma non lo sapevo. È per forza una novità, è novità. Prima mi piace, io non vado mai al cinema, però mi piace. Comunque, in realtà è Wunderwaffer che ci impone di trasmettere i trailer dei film in cui il Wunderwaffer compare come pubblicità occulta. Ma cosa? Eh sì, il film di oggi ve lo consigliamo perché comunque ha un messaggio forte, importante e importante. Hai detto due volte importante. È perché è importante. Vai col trailer! Fermo! È troppo pericoloso! Non possiamo mollare proprio ora! Oh, Jim! Ne va della sopravvivenza dell'umanità! Kana! Dai, trova Robete, il decimo teschio. Dagli attrezzisti l'undicesimo teschio. E dalle controfigure che c'erano anche il dodicesimo teschio. Il tredicesimo teschio. Vedi questa mappa, Boris? Dimostra che il tredicesimo teschio è nascosto dietro questa cascata. Cascata! Ma chi vuole ostacolare la riunificazione dei 13 teschi Maya? Voi non capite! Il tredicesimo teschio chiuderebbe il cerchio e salverebbe il mondo! Professor Gymkhana, e questa sarebbe una teoria archeologica? Mi vedo costretto a radiarla dal nobile albo degli esploratori coraggiosi. Era un'impresa disperata, ma l'antico teschio andava salvato. L'antico teschio va salvato! L'ho appena detto. Forza, Boris, il mondo ha bisogno di noi. Però prima è meglio allacciarsi le scarpe. Un viaggio incredibile. In volo tra le fiamme dell'infernale vulcano spento di Cucamonga. Capra, Boris! Capra! Capra! Capra! Capra, che ho detto, Boris! A dorso di cavallo lungo le steppe incontaminate di Abdullah X. Get up, Boris! Get up! A 180 all'ora giù dalla pista da Bob del Tütlisberg Spasse. Frena, Boris! Frena! L'antico teschio era salvo. Oh, Jim, Kana, sei stato così coraggioso! Non adesso, Mary, adesso devo salvare il mondo! Non c'era tempo da perdere. Il tredicesimo teschio deve essere riunito agli altri 12 nell'aula magna della sede degli esploratori coraggiosi. Ma il tempo stava per scadere. La mezzanotte del 20 dicembre 2012 si stava avvicinando. 3, 2, 1. Fermi tutti. Oh, finalmente qui con me il tredicesimo teschio di Cristo. Il tredicesimo teschio al cinema. Vabbè, ho capito, i film sulla fine del mondo adesso, i teschi, siamo anche templari, un po' fuori tempo, quanto, già fatto capito, tutti. Però la cosa che mi chiedo, scusa, dov'è che compare Wunderwaffe? È nella famosa scena che nel trailer non c'è, in cui Mary e Gymkhana si dividono a morsi l'ultimo Wunderwaffe rimasto e poi stanno per fare l'amore, ma suona il telefono. Pronto? Pronto? Sono Batman. Ah, ciao, scusa, sto lavorando, mi puoi chiamare dopo, grazie. Ciao. Batman, ciao, così. Capo, tu sei pazzo. Chiedo asilo. È tra di 24.it. Lunedì, venerdì, 16.45.